Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La crescita italiana sarà la più bassa in Europa, secondo Bruxelles. Pesano l'incertezza politica e il problema delle banche. Intanto UBI annuncia il piano dopo l'acquisizione di Etruria, Carichieti e Banca Marche, 1500 esuberi entro il 2020. Si setacciano i campi nomadi in cerca dell'assassino delle tre sorelle Rom in rete e non solo insulti e razzismo nei confronti delle vittime. Sarebbero di MSF le persone indagate dalla procura di Trapani, un arresto intanto per l'omicidio del migrante che non voleva consegnare il cappello. Secondo l'avvocato della Corte di Giustizia Europea, Uber potrebbe essere costretta a possedere le licenze, attesa per la sentenza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo in diretta video su Facebook appunto, così come dalla pagina Facebook di Radio 24. In apertura dunque ci occupiamo di economia con le previsioni di primavera della Commissione Europea. Sentiamo. L'Italia economica continua ad arrancare, secondo le ultime previsioni economiche pubblicate questa mattina dalla Commissione Europea. La crescita nazionale dovrebbe essere dello 0,9% nel 2017 e dell'1,1% nel 2018, di gran lunga la più bassa di tutti i paesi della zona euro. Secondo Bruxelles, queste stesse previsioni sono soggette a non pochi rischi, a causa dell'incertezza politica e del lento, troppo lento, risanamento del settore bancario. È un quadro piuttosto deprimente quello tratteggiato oggi dall'esecutivo comunitario. La crescita resta fragile, il deficit elevato, il debito elevatissimo, ben oltre il 130% del prodotto interno lordo. In compenso, la Commissione europea nota un moderato aumento dei salari e una crescita dinamica delle esportazioni. Il nodo principale restano i conti pubblici e non perché le regole europee prevedano il rispetto del bilancio in pareggio. Deficit e debito pesano sempre più sulla crescita economica, affievoliscono il dinamismo del settore privato e non permettono alle riforme economiche di dispiegare pienamente i loro effetti benefici. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Questo è il quadro da Bruxelles, dunque noi restiamo sui temi economici occupandoci di UBI. Dopo l'acquisizione delle tre cosiddette good bank, prospetta un piano nel quale ci sono degli esuberi. Salvate a un passo dal fallimento nel novembre 2015, da allora Banca Marche, Popolare, Etruria e Carichieti hanno iniziato una lunga convalescenza che ha consentito loro, se non altro, di trovare un compratore. E il gruppo UBI, che ha pagato il prezzo simbolico di un euro, ma almeno ha deciso di accollarsi filiali e dipendenti, che in cambio consentiranno all'ex Popolare di incrementare la propria quota di mercato dell'1% a livello nazionale. L'operazione è stata chiusa ieri a poche ore dall'acquisto. Stamattina UBI ha già comunicato il destino che attende i tre istituti. Nonostante il cantiere del risanamento, oggi presentano ancora costi superiori ai ricavi e così l'acquirente ha annunciato che si dovranno risparmiare 200 milioni l'anno entro il 2020. In programma c'è la chiusura di 140 filiali sulle 500 attuali, ma soprattutto l'uscita anticipata di 1569 addetti, vale a dire circa il 32% dell'organico delle tre banche. Serviranno importanti riorganizzazioni, ci saranno uscite di personale inevitabili, ma allo stesso tempo la pulizia che è stata fatta sulla situazione del credito migliorerà nettamente il costo del rischio, ha spiegato l'amministratore delegato di UBI, Victor Massia, che al termine della cura punta a estrarre un utile di 100 milioni dalle tre banche neoacquisite. La borsa, cinica, quando vede il taglio dei costi compra e così il titolo UBI stamattina ha toccato un picco di oltre il più 2%, per poi tornare intorno alla parità. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ovviamente, come sempre, torneremo sui mercati più avanti, non solamente con UBI, ma col quadro generale. Alle 13.30 adesso ci occupiamo di cronaca, iniziando dalla ricerca dell'assassino delle tre ragazzine morte, tre sorelle morte bruciate ieri in un camper a Centocelle, a Roma. Roma si ferma oggi per Francesca, Angelica ed Elisabeth, le tre sorelle rom di 4, 8 e 20 anni, morte nel rogo del camper in cui dormivano martedì notte a Centocelle, alla periferia della capitale. Alle 18.30, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, la comunità di Sant'Egidio promuove una veglia alla loro memoria. Chiunque sia stato, è un crimine orrendo. Quando si arriva a uccidere i bambini, si è al di sotto del genere umano, ha detto il capo dello Stato Mattarella. Il Papa, invece, ha mandato l'elemosiniere, Monsignor Krajewski, per portare un saluto e un aiuto concreto alla famiglia Lilovic. Originaria della Bosnia, le tre sorelle vivevano con il padre romano, la moglie ed altri 8 fratelli in un parcheggio all'aperto in un centro commerciale. Ed è ancora caccia il responsabile dell'incendio. Al setaccio alcuni campi nomadi. L'ipotesi è che si tratti di una vendetta maturata in ambienti rom. La procura indaga per incendio doloso e omicidio volontario. Uno sconosciuto a volto scoperto avrebbe infatti lanciato una bottiglia incendiaria e sarebbe stato filmato da una telecamera di sorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio della Digos. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questa vicenda torneremo ad occuparci più avanti nel corso di Effetto Giorno, nel corso del nostro giro per l'Italia. Veniamo alla questione ONG e migranti, e non solo a quella, a dire il vero. Tra gli indagati a Trapani ci sarebbe personale di Medici Senza Frontiere. Nel frattempo scattano due importanti operazioni, appunto, contro i trafficanti di uomini. Sentiamo. Avrebbero convinto i migranti soccorsi a non rispondere alle domande della polizia e il soccorso sarebbe avvenuto senza avvisare la Guardia Costiera italiana. Queste le accuse nei confronti di alcuni attivisti, membri dell'equipaggio di una nave di Medici Senza Frontiere, che risultano indagati dalla Procura di Trapani. Il procuratore di Trapani, Ambrogio Cartosio, in audizione alla Commissione Difesa del Senato. La Procura di Trapani ha in corso indagini che concernono l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e che coinvolgono non le ONG come tali, ma soggetti appartenenti alle ONG. Il dibattito sul ruolo delle organizzazioni umanitarie sollevato dal procuratore di Catania Zuccaro si stringe quindi intorno ad alcune singole persone. Sull'accusa più pesante, quella di presunti finanziamenti da parte di organizzazioni criminali, il direttore di Frontex, Fabri Legeri, aggiusta il tiro. Non abbiamo nessun elemento per dirlo. Nessuna informazione di questo tipo è stata trasmessa alle procure. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Uccisioni a sangue freddo, torture e stupri. Con queste accuse sono stati fermati dalla polizia di Agrigento 3 scafisti nigeriani. Erano sbarcati a Lampedusa lo scorso 16 aprile. Il provvedimento emesso dalla DDA della Procura di Palermo contesta le aggravanti dell'agire con sevizie per futili motivi. A inchiodare i tre, il racconto di una donna segregata in Libia assieme ad altri migranti, violentata e che ha assistito all'omicidio del fratello compiuto da uno dei tre. Picchiavano senza motivo, ricorda un altro, a cui con un bastone fratturarono un piede. Crudeltà che gli inquirenti ritrovano in un altro caso, avvenuto questa volta a Catania. Gli arrestati sono due presunti scafisti libici fermati da Polizia di Stato e Guardia di Finanza perché ritenuti appartenenti a un'organizzazione di trafficanti di esseri umani. A uno dei due è contestato anche il concorso nell'assassinio di un 21enne migrante della Sierra Leone ucciso con un colpo di pistola perché si era rifiutato di togliersi il cappellino. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo il quadro, appunto, per quanto riguarda i migranti. A Pomezia, e non solo, torna un po' di normalità con alcune scuole riaperte ieri. Dopo la notizia che non c'è amianto nell'aria, si tratta di capire se altri inquinanti, il più temibile naturalmente la diossina, abbiano contaminato l'aria attorno al luogo del rogo che ha devastato la Eco X, azienda che stoccava rifiuti. La risposta arriverà nel pomeriggio. Ieri intanto la ASL Roma 6 ha certificato che non c'è una significativa dispersione di fibre di amianto all'interno dello stabilimento. Stamattina, in un affollatissimo consiglio comunale di Pomezia, il sindaco Fabio Fucci ha smentito che non vi sia stato intervento dopo la segnalazione di un comitato di quartiere e ha sottolineato, è tornato a sottolineare, il rischio criminalità. Sentiamolo. E si è parlato tanto di questo esposto del comitato di quartiere Castagnetta. Il comitato di quartiere che a novembre del 2016 aveva segnalato al comune le preoccupazioni in merito a questo impianto. Preoccupazioni che noi abbiamo condiviso, al punto che ci siamo attivati. Tutto ciò è stato fatto. Quindi prontamente, dopo pochi giorni, abbiamo investito le autorità competenti che abbiamo individuato essere ASL e i carabinieri del NOE a effettuare i dovuti accertamenti. Perché dalle cronache giudiziarie conosciamo tutti quali sono i legami con la criminalità. E allora io non credo che questi rifiuti abbiano preso fuoco da soli. E quindi da qui l'invito a tutte le autorità a fare ogni massimo sforzo per evitare che questo avvenga in futuro, ma soprattutto per evitare che la criminalità gestisca impianti così delicati. E all'autorità di vigilanza della Regione Lazio io dico venite a controllare gli impianti che avete autorizzato. Così dunque il sindaco di Pomezia. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto per infiltrazioni mafiose 4 comuni, San Felice a Cancello, provincia di Caserta, e 3 in provincia di Reggio Calabria, Laureana di Borrello, Bova Marina, Gioia Tauro. Intanto proprio a Reggio Calabria, importante operazione contro l'Ndrangheta. Ci sono anche Orazio e Paolo Rosario De Stefano, zio e nipote, al vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, tra i 5 fermati nell'operazione Trash che la polizia di Reggio Calabria ha eseguito dopo una lunga indagine sulla gestione del comparto della raccolta dei rifiuti nella città dello Stretto. I De Stefano, entrambi latitanti per molti anni, avrebbero finora, secondo la DDA Regina, controllato il ricco settore della spazzatura attraverso richieste estorsive e la gestione indiretta della società partecipata Fata Morgana, poi fallita, che si occupava della raccolta differenziata. Responsabile tecnico della società è stato anche il pentito Salvatore Aiello, cugino di Orazio De Stefano, che adesso sta rivelando particolari interessanti. La cosca non avrebbe tralasciato di interessarsi anche del ramo imprenditoriale relativo allo smaltimento dei rifiuti e a quello della manutenzione dei mezzi utilizzati per la raccolta, imponendo la scelta di fornitori amici e l'assunzione di personale. Francesco Straticò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E ora torniamo all'Europa per occuparci di Uber. Tra i due litiganti, Uber e taxi tradizionali, il terzo spariglia le carte. Secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, infatti, Uber può essere obbligata a possedere le licenze richieste dalle legislazioni nazionali per i taxi, perché non beneficia del principio di libera circolazione dei servizi garantito dall'Europa per i cosiddetti servizi della società dell'informazione. La piattaforma elettronica Uber, si sostiene nella tesi, pur rappresentando un'idea innovativa, rientra infatti nel settore dei trasporti. Questa è la conclusione a cui è giunto l'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea nella causa intentata alla piattaforma Uber da un'associazione di taxi spagnola. La causa è cominciata nel 2014 quando l'Associazione Professionale Elite Taxi della città di Barcellona ha presentato un ricorso al Tribunale Commerciale di Barcellona chiedendo di sanzionare la società spagnola Uber System Spain per concorrenza sleale nei confronti dei conducenti della Elite Taxi. E ora, se confermata questa tesi, la causa sarà un precedente. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla politica italiana. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, ci occupiamo di legge elettorale, perché si continua a cercare un accordo. Dovremmo essere in linea con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Simone, Forza Italia conferma la sua linea in tema di legge elettorale, contraria a preferenze e a correttivi maggioritari. La nota di Silvio Berlusconi al termine del vertice convocato questa mattina a Palazzo Grazioli. Nel corso della riunione si sono ribaditi i criteri di Forza Italia, quelli che considera necessari per andare al voto, una legge elettorale che consenta un'effettiva corrispondenza fra voto espresso dagli italiani e rappresentanza in Parlamento, no a correttivi maggioritari, leggi elettorali organiche per Camera e Senato e no a voto di preferenza. Ieri l'asse tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle, disposti ad estendere l'Italicum anche al Senato, come era stato modificato dalla Consulta. Il PD preferirebbe il maggioritario, ma Matteo Renzi ha ribadito che la proposta spetta alle altre forze politiche. Dopo lo sgambetto dell'elezione di Salvatore Torrisi di AP a presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato al posto del candidato PD. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E non possiamo che iniziarlo nella giornata di oggi da Centocelle, a Roma appunto, dove, come vi abbiamo ampiamente raccontato ieri, sono state uccise 3 sorelle, di cui la più piccola di 4 anni, 3 sorelle rom che vivevano dentro un camper in un rogo, e cercheremo di raccontarvi che cosa succede in quella zona tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, in diretta video www.facebook.com/effettogiorno. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati delle previsioni economiche della Commissione Europea che indicano la crescita italiana come tra le più basse in Europa, dei tagli che sono stati annunciati da UBI per le tre cosiddette good bank, ci siamo occupati della cronaca del dopo omicidio di quelle tre sorelle rom all'interno di un camper, e tra un attimo ci torneremo. Ci siamo occupati ancora della vicenda ONG e migranti, perché sarebbero di MSF le persone indagate dalla procura di Trapani. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e, come si diceva, non possiamo che iniziare da quello che appunto è successo a Centocelle ormai due notti fa. In queste ore, come vi stavamo raccontando anche nel nostro servizio, si stanno settacciando i campi nomadi, lo stanno facendo le forze dell'ordine, perché il sospetto è che quella molotov lanciata sotto il camper, che ha dato fuoco a questo camper e che ha fatto sì che queste tre persone morissero, tre ragazze, tre sorelle di 20, 8 e 4 anni, sia una vendetta. Il racconto è molto chiaro, per esempio, dalle pagine del quotidiano Il Messaggero, nella cronaca di Alessia Marani e Camilla Mozzetti, nel quale si parla addirittura dell'ipotesi che il clan Alilovic, al quale appartenevano queste tre ragazze, questa famiglia con 11 figli, conoscevano i segreti della forse alla base di tutto ci sarebbe addirittura una soffiata sugli scippatori di una ragazza cinese che, come ricorderete, appunto poi morì a Roma nei mesi scorsi. Noi siamo in linea con Mario Aiello del Messaggero. Mario, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Con te per parlare più che della cronaca, del clima che si respira in quel quartiere, no? Che, come racconti oggi sulle pagine del quotidiano, no? ha vissuto innanzitutto quell'area, una di quelle che forse è stata la più grande vergogna italiana in termini di dimensioni, no? Di Campo Rom, che era quello che era il Casilino 900, che poi fu fatto abbattere da Alemanno, e dove si vivono ancora evidentemente dei problemi di convivenza, e anche quello che leggiamo sui social in queste ore, quello che abbiamo sentito dagli stessi cittadini di Centocelle nelle interviste in TV, un po' ce lo raccontano. Sì, è una cittadinanza storicamente di sinistra. Centocelle è stato uno dei quartieri modello per l'integrazione anche scolastica degli immigrati e dei Rom. In questo contesto, negli ultimi anni si è creata una forma di paura molto forte. Io ho letto anche sui giornali, non sul Messaggero, diciamo descrizioni di questi cittadini anche un po' razzisti, cosa che non è affatto. È una cittadinanza impaurita, sola. Bauman parlava della solitudine del cittadino globale. Ecco, io ieri ho passato una giornata a Centocelle e l'ho potuto toccare con mano. C'è il campo Rom a Via dei Gordiani, proprio a 200-300 metri dal luogo in cui sono state bruciate queste bambine, la loro sorella più grande, ed è uno dei classici campi Rom che fanno paura ai cittadini, in quanto non sono minimamente sorvegliati, non si sa chi ci sta dentro, pieni zeppi di faide all'interno dei clan. E questo è il problema. Faide che poi pare che siano alla base dell'uccisione delle bimbe dentro il camper. Quindi anche una cittadinanza virtuosa, assolutamente sì. Così il PC prendeva il 70% a Centocelle in certe fasi. Insomma, anche una cittadinanza del genere è molto impaurita. Razzismo direi zero. Sì. Allora, ti fermo solo un attimo, Mario, perché noi abbiamo sentito, col quale abbiamo parlato anche di alcune cose che abbiamo letto sui social, anche sul gruppo, no? Su un gruppo Facebook che fa riferimento a Centocelle, dove, devo dire la verità, ci sono state frasi violente, ma ci sono state anche molte persone che si sono schierate contro chi pronunciava o scriveva queste frasi violente. Comunque abbiamo parlato con Giovanni Boccuzzi, che è presidente del municipio, che è del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto due chiacchiere con lui, sentiamo cosa ci ha detto. Quello che è successo l'altra notte è significativo, stanno deponendo dei cuscini, dei fiori, già hanno iniziato da ieri, diciamo che nel quartiere è comunque tranquillo, insomma, quindi diciamo che noi ci siamo rammaricati moltissimo di quello che è successo. Stiamo aspettando le indagini della procura. Senta, sì. Nelle ore scorse, anche nelle interviste che abbiamo visto, anche in quello che si è un po' letto da qualche parte sui social network, ci sono stati anche dei brutti segnali, se vogliamo, no? Perché qua parliamo di tre persone che sono morte, di cui tra l'altro due bambine, e qualcuno che dice e scrive anche all'interno del quartiere, dice e scrive, beh, insomma, è bene così, addirittura qualcuno ha scritto. No, guardi, noi assolutamente una cosa del genere non l'accettiamo, ci dissociamo assolutamente da delle frasi, io non le ho lette, ma se me le dice lei così, veramente è raccapricciante, insomma, quello che scrivono. Diciamo che noi abbiamo nel nostro municipio alcune zone che risentano una certa criticità, ma insomma, cioè, una cosa del genere non l'accetto. Parlava delle criticità, perché queste criticità ci sono oggettivamente, insomma, no? C'è un problema di convivenza specifico con le comunità rom che riguarda il vostro quartiere? Guardi, noi abbiamo una criticità che è conclamata già da parecchio tempo, che è il campo di via Salviati, che non risiede nel nostro municipio ma nel quarto, però nella zona di Tor Sapienza, ovviamente, che è praticamente attaccata a questo campo, con i fumi tossici che ogni tanto, il materiale che viene bruciato, è fastidioso sicuramente, quindi diciamo che la reazione delle persone lì è scontata, insomma, non piace a stare con le finestre chiuse, quindi sicuramente da questo punto di vista diciamo che la popolazione ne sta risentendo parecchio, però insomma c'è un programma da parte del Comune di Roma nei confronti dei campi nomadi, una progressiva chiusura, come dal nostro programma del Movimento 5 Stelle, quindi diciamo che ci si sta attivando per avere questa progressività di chiusura. Dove andiamo a questo punto, Mario Aiello, anche con le parole di Boccuzzi, a quello che poi è il tema più generale, no? Al di là del fatto di cronaca, drammatico, dolorosissimo, vedremo dove andranno a finire le indagini, ovviamente, perché appunto c'è questa ipotesi di una vendetta tra Roma, ma non si esclude altro, e poi c'è un tema più generale, no? La gestione dei campi nomadi e conseguentemente il tema della convivenza. Sì, la gestione dei campi Roma e dei campi nomadi, noi vediamo che noi sappiamo, lo vediamo, che questi campi nomadi erano spesso in passato presidiati da fuori, dai vigili, spesso dalla polizia. Poi negli anni di Mafia Capitale, invece, Buzzi affidò a se stessi, insomma, alla propria cooperativa, il controllo di questi campi, proprio delle sentinelle, spesso ex galeotti, perché la cooperativa di Buzzi era così, nasceva da quel tipo di esperienza là. Con Mafia Capitale è finito anche questo tipo di controllo, e si tratta di zone assolutamente abbandonate a se stesse. Più forte l'abbandono e più forte è la paura che queste baraccopoli creano nei cittadini che abitano da quelle parti. Ieri io, parlando con le persone di Centocelle, nelle quali appunto non notavo nessun accento razzista, notavo però il fatto che chiedono più presenza dello Stato, più più ricuscitura tra la cittadinanza e le istituzioni. Ed è questo che manca, sì. A deporre i fiori e gli altri messaggi di cordoglio, di solidarietà, erano per lo più ieri persone legate a quel che resta della sinistra, certo. Al sindacato, a Sinistra Italiana, sì. Al PD, e quindi proprio io credo che proprio dalla politica possa ricominciare, cioè dalla presenza fisica della politica, sì. Comunità, possa cominciare un discorso di sicurezza. Anche di sicurezza. Miniti, io sono stato con Miniti a Corviale una settimana fa, Mario, 10 sì. giorni fa, e anche lì chiedevano questo. Ti ringrazio, grazie a Mario Aiello grazie del Messaggero per essere stato con noi. Marco Cappato è in linea con noi. Marco Cappato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, che cosa è successo? Che nei giorni scorsi la vicenda è quella di DJ Fabo. Marco Cappato era stato accusato, si era autodenunciato per aiuto al suicidio per la morte di DJ Fabo in Svizzera. La procura di Milano, il PM che se ne sta occupando, aveva chiesto l'archiviazione. Oggi è successo che il GIP, il giudice per le indagini preliminari, ha respinto l'archiviazione fissando un'udienza per il 6 luglio. Questa decisione del GIP che cosa vi fa pensare, Cappato? Ma intanto rispetto assoluto per questa decisione, perché è un tema complesso, è un tema delicato anche da un punto di vista giuridico e quindi certamente merita di essere approfondito. Noi con l'associazione Luca Coscioni ci battiamo per i diritti delle persone malate e disabili, il diritto alla vita, che significa all'assistenza ma anche a interrompere la sofferenza quando diventa insopportabile, e su questo continuiamo e continua l'azione di disobbedienza civile. Dall'altra parte c'è il Parlamento che sta esaminando la questione del testamento biologico. Questo fine settimana faremo una mobilitazione in 60 città d'Italia per chiedere che non ci siano ulteriori ritardi, perché è chiaro che si discute nelle aule di giustizia, perché il Parlamento da 40 anni, tanti ne sono passati dalla prima proposta presentata da Loris Fortuna sull'eutanasia, ancora non c'è stata un'assunzione di responsabilità. Tra l'altro, in quello che scriveva la Procura di Milano in un passaggio della richiesta di archiviazione c'era proprio in sostanza un riconoscimento del diritto al suicidio, quindi forse anche per questo il giudice per le indagini preliminari ha deciso, fermiamoci un attimo, insomma, no? Perché stiamo introducendo di fatto un principio nuovo nell'ordinamento. Il tema è molto grande, ovviamente, sono d'accordo con voi. Il pubblico ministero aveva comunque fatto riferimento a principi che stanno nella nostra Costituzione, la possibilità di decidere per noi stessi, che stanno nella giurisprudenza internazionale, la Corte Europea dei Diritti Umani, e anche in precedenti casi come il caso Welby, il caso Ngaro. Quindi la procura non aveva suggerito la creazione di un diritto che cadesse dal cielo soltanto creato da un procuratore. Ci sono degli agganci di carte fondamentali come la Costituzione e a livello internazionale che possono portare a questa interpretazione. Ovviamente non è un tema scontato, sì. O che uno deve avere la presunzione che sia liquidato in un modo o nell'altro. Proprio per questo dico totale rispetto per la decisione del GIP, e l'udienza di luglio sarà appunto un'occasione per confrontare le ragioni, dico in questo caso le nostre ragioni nel difendere il diritto, credo che già esistente, il diritto di Fabo di non dover più sopportare la tortura alla quale era sottoposto. In 30 secondi, Cappato, invece le chiedo un aggiornamento su Yuri Guaiana, chi è? Un attivista dell'associazione radicale Certi Diritti, che è stato fermato dalla polizia a Mosca mentre stava andando alla Procura Generale per consegnare le firme raccolte dalla petizione contro il trattamento dei gay in Cecenia. Sì. Avete dettagli? Ne sapete qualcosa? Ma io ho vissuto la stessa esperienza 10 anni fa, sono stato arrestato a Mosca nelle stesse condizioni, so che i modi sono rudi. So che Yuri sta bene, credo che intanto ci sia da rendergli grazie per aver illuminato una situazione, quella della violazione dei diritti delle persone omosessuali in Cecenia, della quale la comunità internazionale fingeva di non accorgersi. Ora ovviamente seguiamo la vicenda e speriamo che Yuri possa presto tornare a casa. Grazie Cappato, buona giornata. Grazie a voi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo, torniamo a parlare di divorzio, cerchiamo di capire un po' di più, so che ne ha già parlato tanto il nostro Gianluca Nicoletti, anzi se volete c'è il podcast, se non l'avete sentito potete riascoltare la puntata, parleremo di divorzio perché insomma c'è questa sentenza della Cassazione di ieri, ma come sappiamo non è che una sentenza di Cassazione fa primavera, per così dire. Pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta video anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. I nostri titoli: la crescita italiana sarà la più bassa in Europa secondo Bruxelles, pesano l'incertezza politica e il problema delle banche. Intanto UBI annuncia il piano dopo l'acquisizione di Etruria, Carichieti e Banca Marche, 1500 esuberi entro il 2020. Si setacciano i campi nomadi in cerca dell'assassino delle tre sorelle Romi, in rete non solo insulti e razzismo nei confronti delle vittime. E infine una notizia appena battuta dalle agenzie, il delegato sindacale di un impianto della Creuse nel centro della Francia annuncia che gli operai che rischiano di perdere il lavoro per la chiusura imminente dello stabilimento, che prende subappalti da Peugeot e Renault, hanno minato il sito con bombole di gas. Vedremo come evolverà questa vicenda. Intanto i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ecco il nostro giro per l'Italia, torniamo a Roma perché la vicenda è romana, è quella che riguarda questo divorzio che si conclude in Cassazione con la decisione della Cassazione che, per la quale, secondo la quale per l'assegno al coniuge in sostanza non vale più il tenore di vita. Il verdetto stabilisce che se c'è autosufficienza economica cessa sostanzialmente il mantenimento, quantomeno con quel tenore di vita. Allora vi risparmio tutti i dettagli di colore perché la vicenda riguarda anche personaggi noti. L'ex ministro dell'economia Vittorio Grilli, nella fattispecie, la sua casa, i Parioli, i giornali raccontano di questa piscina a corrente, cioè una di quelle con le quali puoi nuotare perché c'è la corrente che ti spinge contro e quindi insomma grande casa eccetera eccetera. Però il tema qua è allora, visto che il nostro sistema della giustizia non, come dire, non prevede l'utilizzo dei precedenti, per quanto la Cassazione sia importante, bisogna capire quanto questa sentenza poi si vada ad applicare concretamente nella vita delle persone divorziate. Alessandro Sartori, presidente di AIAF, l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, che effetti ha, effetti pratici questa cosa? Dà una qualche pezza d'appoggio a, come dire, mariti o mogli che vogliano pagare di meno, sì o no? Sì, certamente è una sentenza che verrà subito utilizzata per cercare di modificare condizioni divorzili che prevedano pagamenti di assegni a favore del coniuge che veniva chiamato economicamente più debole, no? In rispetto al parametro del tenore di vita, come lei ha ricordato in esordio, che era un po' la guida, la linea guida del tenore di vita mio. Per permettermi di averne uno simile, ho bisogno di un assegno di 1.000 euro, 2.000, 10.000, eccetera, eccetera. Oggi no, oggi no, o meglio, questa sentenza, che per carità di solito si dice una rondine non fa primavera, però è un'importante sentenza, anche perché è motivata molto molto bene e credo anche che possa resistere, poi bisogna vedere, perché può darsi che se un'altra sezione della Corte di Cassazione mettesse una sentenza che invece conferma i vecchi parametri, allora si andrebbe necessaria... Torniamo da capo a Dodi. Sì, tornerebbe una sentenza delle Sezioni Unite. Cioè, oggi, come dico, questa è una sentenza che giustamente... Sì. Ma ricordiamo, guardi, la prima cosa che mi viene in mente, avvocato, come esempio su questo tema, è il tema, per esempio, della legislazione sulla cannabis. E là la Cassazione ha dato orientamenti diversissimi a seconda della sezione, tipo. E quindi, sai, è una sentenza, però appunto, come dice lei, una sentenza non fa primavera. Di certo qualcuno starà già pensando guardi, ci sarà un fiorire di richieste di diminuzione di assegni, di elisione di assegni sulla base dei principi di questa sentenza, enuclea molto bene, devo dire. E quindi, ma l'hanno già chiamata lei? Hanno già chiamato il suo studio stamattina? Guardi, devo dirle proprio di sì, a parecchie persone l'ha chiamato, parecchi coniugi maschi che pagano assegni da tanto tempo o di una certa entità, che vorrebbero, sulla base di questi principi che hanno letto sui giornali, cercare di impugnarli. Ho detto di stare un po' calmi e di vedere e lasciare che si verifichi un attimo se questo è un orientamento che troverà accoglimento presso i giudici di merito, perché poi sono quelli che decidono, o se per caso non ci sia magari molto presto un'altra sentenza che dice una cosa diversa, e allora, come ho detto, per stabilire il principio. Tutti calmi. Grazie, calmi, Alessandro Sartori. Insomma, certo, però insomma, indubbiamente questa sentenza stimola molte revanche. Certo. Grazie Alessandro Sartori, presidente di AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.